vi vedo per la strada. Penso alla vostra famiglia, alla vostra tavola imbandita, e voi qui come in una stalla. E poi mi chiedo se è scelta vostra, forse per scoperta o è abbandono. Diceva quanto sei buono, le estati lì sotto nelle stazioni a patire il caldo, voi sotto gli ombrelloni, gli inverni passano lentamente, l'unico calore è quello della gente. Come noi, come noi, come noi, come noi, come noi. La la. Cantiamo insieme il lamento contro la povertà e speriamo che qualcuno se ne accorga. C'è chi di voi se ne frega, non se la sente di prendersi la bega. Io mi trovo qui, fermo vi guardo, vi do l'elemosina, un gesto piccolo di fronte alla vostra sofferenza. Ma è questo che posso fare, stare ore a guardare, ad ascoltare tutto quello che ho intorno nella vita. Ma la vita, si sa, è un passaggio veloce, o almeno si spera, se no tutto diventa atroce. Tutto diventa